da dicembre è stato introdotto questo limite a 30 km orari dopo un dibattito che è durato un po' di tempo, diciamo. Nulla, è stato un passaggio abbastanza progressivo perché l'amministrazione comunale ha scelto di limitare soltanto a determinate strade, di adattare gradualmente questo cambiamento che per molti è stato un po', come dire, ha sollevato una serie di interrogativi. Cominciare dal fatto di come verrà effettivamente applicato, questa è stata la domanda che si sono posti in molti. Quindi tanta gente si chiedeva, finiremo diciamo a spingere le automobili, e altri però sollevavano una questione diciamo più concreta, come verrà effettivamente fatto applicare questo limite, insomma. E quindi questa è stata diciamo la questione più delicata nella fase del dibattito. Diciamo che tendenzialmente bisogna mettere comunque anche un po' di contesto al discorso. La città di Amsterdam, l'amministrazione sta cercando in ogni modo di applicare questo, il principio della riduzione del 90% delle emissioni entro il 2050, e per questo motivo ha applicato una serie di misure locali, tra le quali rientra anche questa della riduzione della velocità a 30 km orari. Diciamo, Amsterdam è famosa nel mondo anche per l'utilizzo della bicicletta. Qual è la propensione appunto dei cittadini di quella città all'utilizzo del mezzo privato a motore? Beh, allora, il discorso è che ad Amsterdam tutti gli automobilisti sono anche ciclisti, e questo naturalmente semplifica di molto il lavoro dell'amministrazione. Diciamo che la gente utilizza l'automobile per motivi pratici, a differenza di quanto si possa pensare, anzi, la macchina, il veicolo a motore utilizzato molto, però tutti sono allo stesso tempo anche ciclisti. Quindi di conseguenza introdurre misure in questo senso che riducano lo spazio per i veicoli a motore viene concepito in una maniera pragmatica, diciamo. Se l'obiettivo è quello di ridurre le emissioni e l'obiettivo è quello di rendere lo spazio cittadino più green, quindi con più spazi per i parchi, più spazi verdi, meno rischi per chi è in strada, eccetera, allora ben venga. Diciamo che in un certo senso viene accolto in una maniera abbastanza sobria da questo punto di vista. Non ci sono state rivolte, non ci sono state grandi proteste, come ad esempio ci sono state a Bruxelles. Non ci sono state proteste particolari da Amsterdam da questo punto di vista. C'è un dibattito in Consiglio Comunale che va avanti tuttora, perché l'opposizione alla giunta rosso-verde della città ha comunque, come dire, ammesso questa misura un po' come sorvegliata speciale, perché loro sostengono che le strade di Amsterdam sono strette, c'è già tanto ciclabile, non c'è posto per le automobili, state riducendo i parcheggi perché ne state togliendo ogni mese. Una politica del comune è quella di ridurre i parcheggi, di togliere i parcheggi per ridurre la presenza delle automobili, e quindi tendenzialmente state rendendo la vita degli automobilisti e di chi ha bisogno dell'automobile un inferno. Questo diciamo che è il loro punto, però tendenzialmente diciamo che la cittadinanza di Amsterdam è abbastanza abituata a forme diverse di mobilità, ed è abbastanza abituata appunto al passo lento della bicicletta o del mezzo pubblico. Prendo spunto da queste ultime cose che dicevi per capire perché, ad esempio, uno dei problemi segnalati a Bologna vede una contrapposizione tra abitanti del centro storico ben serviti e chi viene dalle periferie, dalla provincia, che per lavoro deve utilizzare l'auto perché non ben servita dai mezzi pubblici. C'è questa dimensione anche ad Amsterdam? Il paragone risulta difficile solo per il fatto che parliamo di un sistema talmente capillare di trasporto pubblico nazionale che in un certo senso è difficile rapportare a una città o una regione italiana. L'Olanda ha le dimensioni di due regioni italiane, prendiamo ad esempio Piemonte e Lombardia insieme, forse anche meno probabilmente, ma ha una diffusione talmente capillare del trasporto pubblico da Stato che risulta difficile appunto in questo senso. Diciamo che non si pone il problema, ogni angolo del paese è cablato con trasporto pubblico, quindi in un certo senso l'automobile diventa davvero una questione di città. Se uno chiede a un olandese, l'olandese gli dice: se ho due bambini mi costa di meno ed è più pratico avere l'automobile, ma se devo scegliere sicuramente scelgo il mezzo pubblico. Quindi in questo senso vuoi le dimensioni ridotte, vuoi anche la densità di popolazione molto alta del paese, in un certo senso l'autorità pubblica ha trovato un terreno facile per poter promuovere questa forma di spostamento. Ovviamente chi è all'interno della città è avvantaggiato, certo. Le distanze sono più brevi, la bicicletta può essere comune, portare la bicicletta sul mezzo pubblico, è comune avere i parcheggi scambio, quindi lasciare la macchina fuori città e prendere i mezzi per muoversi, eccetera, insomma.